La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole questa settimana è dedicato alla lunga storia del conflitto tra israeliani e palestinesi, che proprio nelle scorse settimane ha vissuto un'altra pagina con il sostanziale fallimento della mediazione condotta dal presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Ospite ai nostri microfoni Claudio Vercelli, ricercatore di storia contemporanea presso l'Istituto di Studi Storici Gaetano Salvemini di Torino, autore del volume edito dalla Terza Storia del conflitto israelo-palestinese. Ma la parola adesso va a Dino Pesole. Da decenni in Medio Oriente speranze di pace si alternano a bruschi arretramenti che allontanano nel tempo ogni possibile soluzione negoziata al conflitto tra israeliani e palestinesi. Nelle scorse settimane, tanto per citare l'evento più recente, si è assistito al sostanziale fallimento della mediazione condotta dal presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Il premier israeliano ha annunciato la sua intenzione di procedere a nuovi insediamenti ebraici in Cisgiordania e nei quartieri arabi di Gerusalemme. L'anno che sta per aprirsi non promette dunque nulla di buono sul fronte dei negoziati, anche se la lunga vicenda mediorientale ci ha abituato anche a imprevisti colpi di scena. Dal fronte di quella che oggi potremmo chiamare la società civile si muove tuttavia qualcosa, e non certo da oggi. È il caso di un libro di cui ci siamo già occupati alla Storia e la Memoria, un piccolo segnale ma significativo. Si chiama La storia dell'altro, un manuale di storia appunto per le scuole medie, in cui per la prima volta alcuni insegnanti israeliani hanno deciso di raccontare in parallelo con insegnanti palestinesi alcuni dei più rilevanti eventi della loro storia, secondo due narrazioni che compaiono in ogni pagina, una a fianco all'altra. Da una parte la versione israeliana, dall'altra quella palestinese. Il libro La storia dell'altro è pubblicato in Italia da Una città. La lettura corre parallela nel volume e offre la versione israeliana e quella palestinese in contemporanea su tre momenti fondamentali della storia dei due popoli. La dichiarazione Balfour, la guerra del 48 e la prima intifada palestinese dell'87. Gli studenti che imparano la storia nelle scuole in tempo di guerra e di ostilità, si legge nell'introduzione del libro, ne conoscono alla fine dei conti soltanto una versione, la loro, ovviamente ritenuta come quella che sta dalla parte del giusto. Quello che da una parte è considerato l'eroe, dall'altra è visto come il criminale della storia. In una simile situazione, lo Stato forma gli insegnanti a diventare degli agenti culturali preparati solo a giustificare le ragioni dell'uno a scapito di quelle dell'altro. Noi crediamo invece che sia necessario cominciare a istruire i docenti in modo che possano diventare dei promotori di pace, consentendo ai loro allievi di conoscere il racconto degli eventi storici contemporaneamente dai due punti di vista. Nel secondo dopoguerra, la storia del conflitto arabo-israeliano ha inizio il 29 novembre del 1947, quando l'Assemblea Generale dell'ONU vota la famosa risoluzione numero 181, con cui dispone la divisione della Palestina in due stati, uno arabo, l'altro ebraico. La risoluzione viene approvata con 33 voti a favore, 13 contrari, 10 astenuti. Gli stati arabi, Egitto, Siria, Transgiordania, Libano, Iraq, Arabia Saudita e Yemen, si opposero al piano che avrebbe assegnato agli ebrei il 54% delle terre, anche se rappresentavano il 30% della popolazione. Il disimpegno della Gran Bretagna dai territori si realizzò il 14 maggio 1948 con la proclamazione dello Stato di Israele. Il primo conflitto arabo-israeliano termina nel gennaio del 1949 con i trattati d'armistizio di Rodi. Da allora, all'escalation della violenza si sono alternate speranze di pace, dalla crisi di Suez del 1956 al secondo conflitto arabo-israeliano del 1967, dalla guerra del Kippur alla firma degli accordi tra Begin e Sadat a Camp David del 1978, dalla storica stretta di mano tra Yasser Arafat e Isaac Rabin all'uccisione di Rabin del 4 novembre 1995, fino alla visita di Sharon alla spianata delle moschee che diede avvio alla nuova intifada, per finire con lo sgombero dei coloni dalla striscia di Gaza e la costruzione nel 2002 del muro nei territori occupati. Abbiamo in linea il professor Claudio Vercelli, che è ricercatore di storia contemporanea presso l'Istituto di Studi Storici Gaetano Salvemini di Torino, autore di un interessante volume pubblicato dalla Terza, Storia del conflitto israelo-palestinese. Grazie per aver accettato il nostro invito, professor Vercelli. Grazie a voi. E nella ricostruzione che abbiamo cercato di proporre in modo sintetico ai nostri ascoltatori, abbiamo evocato i passaggi principali di questo lungo conflitto. Le chiederei, in primo luogo, quando si è andati più vicini alla pace, secondo lei, in questi ultimi 60 anni? Ma senz'altro nel periodo negoziale della prima metà degli anni 90, a partire in particolar modo dal 1992 in poi, concorsero in ciò alcuni elementi. Il fatto che nel 92 venisse eletto come primo ministro Yitzhak Rabin, che fu poi l'uomo che per parte israeliana meglio rappresentò una volontà negoziale determinata e definita. Sull'altro versante, sul piano della mediazione, la presenza dell'amministrazione Clinton, che cercò in qualche modo di sfruttare alcune circostanze che si erano rivelate sulla scena internazionale per ottenere un obiettivo in fondo ambito anche dalle situazioni precedenti, da quelle successive, ovvero sia la soluzione per l'appunto negoziale di un conflitto oramai antico. Terzo elemento, sul versante palestinese, il fatto che si erano create le premesse, diciamo così, per una sorta di svolta. La leadership di Yasser Arafat era una leadership oramai, per alcuni aspetti, quantomeno declinante, ma nel medesimo tempo non vi erano ancora soggetti che potessero adesso sostituirsi, e il concorso, l'insieme di questi fattori, fece sì che nel 93 si arrivasse a un accordo di massima, quello di Camp David, che fu poi proseguito con ulteriori accordi negli anni successivi. Ecco, poi però si è arrivati di nuovo al muro contro muro, e a proposito di muro, nel 2002 poi è stato costruito questo imponente muro. Ma qual è lo stato attuale del negoziato? Cioè, ci sono, secondo lei, nell'anno che sta per aprirsi, dei barlumi di speranza sul fronte dei negoziati per una soluzione negoziata del conflitto? Direi di no. Se devo essere sincero, siamo in un momento, direi, di fortissima divaricazione, non soltanto tra le due comunità nazionali, gli israeliani e i palestinesi, ma oserei aggiungere anche tra le stesse comunità al loro interno, ovvero sia alcuni complessi meccanismi di trasformazione ed evoluzione sia del campo israeliano che di quello palestinese stanno determinando dei mutamenti, delle vere e proprie metamorfosi che rendono poi più difficile la possibilità di trovare un comune terreno. Il ruolo centrale degli Stati Uniti è una anche dei temi ricorrenti in questo lungo conflitto. Lei ritiene comunque che la mediazione degli Stati Uniti, se mai ci sarà, se mai riprenderà, sarà comunque decisiva oppure no? Credo di no. Credo che rispetto agli anni 90 il ruolo degli Stati Uniti sia uno di quei fattori declinanti. Senz'altro le future amministrazioni si impegneranno ancora su questo versante, poiché il conflitto israelo-palestinese non è solo un conflitto con un alto valore militare o comunque sia armato, ma è anche un conflitto simbolico capitale. Riuscire a trovare delle soluzioni negoziali dà molte opportunità ai mediatori, ma gli Stati Uniti oggi stanno conoscendo a loro volta una trasformazione profonda sul piano geopolitico, in sostanza un declino di ruolo. Bisogna vedere, bisogna considerare, ma sono tutti punti interrogativi al momento, il ruolo che verrà svolto da quelle potenze mondiali emergenti, in questo momento dal punto di vista economico, ma in futuro, in prospettiva anche dal punto di vista politico, come la Cina, come una Russia che è tornata dopo anni di appannamento ad avere un certo ruolo in Medio Oriente, e come forse anche paesi che a noi paiono molto lontani da quelle vicende, ma che nel consesso internazionale iniziano a pesare molto, a partire ad esempio dal Brasile. Dal punto di vista prettamente storico, noi in genere quando parliamo del conflitto mediorientale partiamo dalla famosa risoluzione dell'ONU del 47. In realtà però, come documenta il suo libro, le origini del conflitto israelo-palestinese affondano in molti anni antecedenti, addirittura alla fine dell'Ottocento. È corretto questa interpretazione? Sì, è corretta, tenendo però in conto il fatto che non abbiamo a che fare sempre col medesimo conflitto, ma non è un gioco di parole, con una pluralità di conflitti che nel corso del tempo si ridefiniscono perché mutano anche i soggetti che sono in campo. Israeliani e palestinesi non sono mai stati uguali a se stessi, del pari anche i soggetti dell'arena internazionale che hanno assistito al conflitto medesimo, vi hanno partecipato e concorso, hanno tentato di mediarlo o addirittura in alcuni casi lo hanno invece alimentato. Di certo però la lunghezza di questo conflitto, la sua singolare rilevanza, trova uno dei suoi riscontri nella sua perduranza nel corso del tempo. Non è, come semplificatoriamente viene detto, un conflitto tra Occidente e Oriente, tra religioni o tra civiltà distinte. È paradossalmente un conflitto che mette in contatto storie diverse ma molto accomunabili per più passaggi. D'altro canto io vorrei far presente a chi ci ascolta una cosa molto importante, che più si è prossimi, più si è vicini, maggiori a volte sono i motivi di attrito. Non è solo una questione di spazio, non è solo una questione di luoghi, ma è una questione proprio di reciprocità culturale che entra in gioco. E questo dato, invece che aiutare a smussare le tensioni, a volte invece le amplifica. Le vorrei chiedere un'ultima cosa, professor Vercelli, un suo commento a questa iniziativa che noi abbiamo definito un piccolo ma significativo segnale di questo libro, La storia dell'altro, in cui compaiono per la prima volta insieme le due letture, diciamo, della storia, quella israeliana e quella palestinese. Qual è il suo punto di vista? È un piccolo segnale? Ha qualche possibilità di essere raccolto, secondo lei? L'espressione di una sensibilità culturale che è presente in entrambi i campi, che è una sensibilità forse più diffusa di quanto non siamo disposti a credere, che non è legata soltanto a piccoli circoli intellettuali, ma anche a segmenti rilevanti della popolazione. La ringrazio molto, buon lavoro. Buon lavoro a lei.